as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi una puntata, diciamo, di quelle che si è sempre felici di fare, perché abbiamo incontrato una compagna, una delegata della FIOM, della ex Saga Coffee, oggi Gaggio Tech. Tutti quanti avete sentito parlare della Saga Coffee. Abbiamo fatto diverse puntate e chi volesse riascoltare le nostre puntate può andare sulla nostra pagina podcast Il Pane Nelle Rose, che troverete gli indirizzi o sulla mia pagina personale di Facebook o sulla pagina Il Pane Nelle Rose sempre su Facebook o su Instagram. Troverete tutti gli indirizzi per andare sul nostro podcast, dove sono le vecchie puntate. Questa puntata poi sarà inserita anche questa nel podcast. La Saga Coffee è una battaglia vinta da parte della FIOM, che è stato il sindacato che più si è impegnato. Abbiamo avuto un paio di settimane fa qui ospite il delegato invece della ex Magneti Marelli, e questa soluzione che si è avuta la Saga Coffee assomiglia tantissimo a quello che è successo in Magneti Marelli. Una azienda che ha deciso di chiudere, di lasciare il territorio, di lasciare in mezzo alla strada i lavoratori, una battaglia sindacale, in questo caso per quanto riguarda la Saga Coffee, una battaglia di montagna fatta dalle donne della Saga Coffee, non solo, anche dagli uomini, ma la maggior parte sono donne che lavorano all'ex Saga Coffee. Un territorio che ha supportato, così anche come ha fatto Creva al Cuore nel caso dei Magneti Marelli, molto le donne della Saga Coffee, perché andando via la Saga Coffee per il territorio di Gaggio Montano sarebbe stata veramente una cosa drammatica. Una forza d'animo incredibile di queste donne, una battaglia esemplare. C'è stato un libro, hanno fatto dei documentari su questa battaglia veramente epica. Alla fine Colla, insieme alla FIOM, bisogna dare atto che l'assessore della regione dello sviluppo Colla insomma ha fatto un buon lavoro. Io non sono, chi mi conosce sa che non vado molto d'accordo con il PD, non seguo le politiche del PD, lo dico apertamente, chi mi ascolta lo sa benissimo, però bisogna dire, come assessore Colla, la sua linea, quella di trovare qualcuno che acquisti lo stabilimento, la produzione, e tenga il livello occupazionale, dove non si può assumere tutti quanti, una serie di incentivi per chi vuole andare via in maniera sempre volontaria. Questo è successo anche in Magneti Marelli. Voglio ricordare che non è scontato, ci sono state alcune aziende, non voglio fare i nomi, in cui con sindacalisti anche di un certo spessore, che ci sono state delle liste in cui le persone sono dovute andare via, hanno preso dei soldi, ma invece qui tutto volontario, chi è andato in pensione, chi è andato via, il resto sono rimasti in azienda, questa nuova azienda. E adesso ascoltiamo quello che ci racconta la nostra compagna. Prima un pezzo musicale che, ripeto, troverete nella pagina di Pane e Rose il link per capire chi sono questi musicisti, così andate a vedere la pagina. Musica insomma impegnata, musica alternativa, musica molto indipendente. Abbiamo cambiato, diciamo, genere al Pane delle Rose, sta piacendo, la gente è contenta, e poi ci sentiamo un attimo per le conclusioni alla fine. A dopo. weather leaps, the weather weeps, weeps into the winter. As the weather leaps, the weather weeps, weeps into the winter. The rain, the rain, the rain, thank God, the rain. The rain, the rain, the rain, thank God, the rain. Eccoci qua, Siamo con Pina Mangone, ex Saga Coffee. Siamo qui a un corso RLS insieme e ne sto approfittando perché volevo chiederti innanzitutto come sta andando. Adesso avete una nuova, un nuovo, vi hanno acquistato, avete già iniziato da quello che mi risulta. Racconta un po' la nuova ex Saga Coffee, come sta andando, come vi trovate, raccontaci un po'. Ok, allora, sono Pina Mangone, RSU RLS della nuova azienda che si chiama adesso Gaggio Tech. Della FIOM, sì. Sì, della FIOM, Gaggio Tech, che facciamo lamiera, ferro e plastica. L'azienda si sta avviando, appoggiata dall'ex Evoca Saga Coffee, che fa fare ancora un po' le macchine da caffè, che ad ottobre, fino a ottobre finiscono e poi continuiamo con la nostra plastica e tutto quello che la nuova azienda fa. Siamo entrati quasi 110 a rotazione, dipendenti, uffici, tra laboratori, siamo 137 che dobbiamo entrare. A fine mandato del 2025 dovremmo essere tutti dentro, però vediamo, si sta avviando bene, dico, dire la verità, sono entrata 3 giorni fa, il lavoro è organizzato bene, si può sempre migliorare, però bene. Le ragazze hanno fatto un bel lavoro, i primi che sono entrati, l'azienda anche, abbiamo 7 presse con la plastica, abbiamo delle linee dove Enel ci fa fare del lavoro, Mini Faber lavora sia per Evoca come struttura della macchina di caffè, quelle industriali che è tutto ferro. Stiamo andando bene, ad oggi si sta avviando, stanno seguendo la procedura. Allora, praticamente voi fate plastica, materiale in plastica e materiale in ferro. Esatto. Allora, la parte in plastica? La plastica è in due, si divide in due sensi. La plastica che si fonde, che la chiamano plastica burro, e la plastica soda come l'uovo, dove si può riciclare ogni volta che non si va a buttare niente, sempre nelle direttive, nella norma, che sia plastica che si può acquistare, che non sia tossica, comunque loro ci tengono tanto a che siano nei parametri di sicurezza, di salute, tossicità, eccetera. Chi sono i vostri clienti della plastica? Allora, noi abbiamo 2 soci, uno che si chiama Triulzi, che è la plastica, che ha la quota del 60%, e Mini Faber, che è il 40%. Per chi lavorate? Perché la roba vostra è dove? Sì, noi siamo in contrattazione con Enel, ad oggi Evoca, e piano piano arrivano altri. Tutto il materiale delle macchine per preparazione del caffè, le vostre macchine che facevate prima, la parte in plastica continuate a farle voi? No, non sono la parte in plastica della macchina da caffè che avevamo noi, sono sì dei distributori, quelli grandi, ok, che sono dei cassetti, quelli che si ribalta dove prendi le bibite, e poi piano piano... Ah, così, i distributori automatici? Esatto, bravissimo, anche perché Evoca, noi vending, ex Saga Coffee, faceva le macchine da caffè industriali, quelli grandi automatici, e in più una parte piccola per gli uffici, e noi facciamo la parte quelle più grandi. Praticamente chi vi ha acquistato era che comunque chi aveva a che fare con Evoca sulle macchine che facevate voi, un po' come è successo da Mani di Marelli in un certo senso. Se mi ricordo quello che mi hai raccontato, sì. Danno lavoro in modo che dunque chi vi ha acquistato era comunque era un cliente dell'azienda dove voi lavoravate. Sì, la parte in plastica. No, quello in lamiera, la plastica è rientrata dopo. Sì, quindi sono diventati clienti acquistando voi, ok. Mini Faber era già un cliente, ci conosceva anche come persone, non dico a tutti, però ha collaborato con Zaccanti, Zappelle, perché faceva sempre lamiera, la scrittura. Dunque la parte in ferro che oggi voi fate serve sempre per il settore delle macchinette? Ad oggi sì, però per adesso vogliono rimanere così. Per adesso, e poi potete comunque, facendo la roba in lamiera, in ferro, il mercato è più ampio. Sono andati in fiera, hanno trovato un po' di clienti, vengono, guardano, servono. A breve penso che ci avviamo come si deve. Le macchinari ci sono, le strutture c'è, hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Quanti lavoratori non eravate prima? 220 con la saga Coffee, e alla fine ci siamo ridotti in 137, che è andato, che si è spostato con ebook agli uffici, la qualità è prescelta. Quindi c'è stata una parte che ha scelto di rimanere con Evoca. Esatto. Qualità, uffici, dove lavorano? In caso? A Bergamo. A Bergamo, sono andati a Bergamo. Sì, una sì, parte. Sì, sì, sì. Invece un'altra parte... È a Treviso, scusami, che sono, hanno l'ufficio. Un'altra parte è in pensione. Qualcuno ha preso l'incentivo, prepensionamento, e qualcuno se n'è voluto andare per scelte loro. Sempre volontari. Hanno tutti scelto... L'accordo sindacale prevedeva che tutti potessero rientrare. Un po' come la Mani di Marelli, diciamo il piano colla, perché abbiamo fatto una puntata sulla Mani di Marelli, ex Mani di Marelli, e diciamo molto simile alla vostra situazione. Si è trovato un compratore che comunque non è molto lontano, completamente lontano dal settore dove voi lavoravate, perché comunque sono fornitori in un certo senso, la Miera è plastica, e tutti hanno avuto la possibilità di rimanere all'interno. Chi si è voluto andare ha seguito la ditta madre, è andato, come è successo anche a Mani di Marelli, chi vuole. Dunque è molto simile. E com'è la situazione all'interno? Il morale di voi lavoratrici, la maggior parte delle lavoratrici? Allora, un po', oddio, dovremmo scongelare i nostri accordi, il nostro stipendio, perché attualmente il nostro stipendio è stato tutto congelato. Abbiamo degli accordi interni che si devono di nuovo liberare, tutta la maturazione dei rati e se si riesce a farli, ok, c'è chi li fa, c'è chi no, la rotazione non funziona come vorremmo, però ce la stiamo mettendo tutta noi come RSU, certo, come funzionario primo che non ci smolla mai. Primo Sacchetti. Sì, sì, sì, sì. E dunque praticamente ci sta tutto adesso l'aspetto, una volta che siete tutti dentro, tutti all'interno, farete, insomma, cioè dovrete guardare l'aspetto salariale, cioè, voi avete degli accordi, sì. Ad oggi comunque si applica il contratto metalmeccanico? Esatto, sì, metalmeccanico, noi siamo rimasti metalmeccanico, fioma, l'accordo è fatto bene. Anche se c'è la plastica, però comunque rimane l'alluminio. Siamo riusciti a tenere quella. Non siete chimici, perché era uno dei punti interrogativi. Esatto, esatto, no, però ci... Per oggi, ad oggi abbiamo fatto un buon accordo, si può sempre migliorare. Sì, il territorio, come ha reagito a questo? Bene, perché il lavoro è rimasto, lavoratrici, soprattutto donne, siamo lì, ci gestiamo le famiglie, chi figli, chi genitori, sai che dopo una certa età abbiamo anche adesso questo problema di gestire anche le famiglie che hanno una certa età, però sì, l'indotto è contentissimo che il lavoro è rimasto lì. Adesso voi siete, come vi chiamate la sua azienda? Gaggio Tech. Allora, Gaggio Tech, devo cominciare a non chiamarvi più ex Saga Coffee. Esatto. Devo ricordare, purtroppo ci per far ricordare agli altri, ci metterò un po' di tempo. Ok, lo faccio. E allora, abbiamo detto Gaggio Tech, che fate plastica e metallo, il sito produttivo è stato salvato, voi siete tutte contente, anche sì. Chi è andato via alla fine è contento, perché ha scelto proprio in maniera volontaria, non ci sono state nessuna lista di proscrizione, no. Che è la cosa più importante, il sito produttivo è rimasto, il territorio è salvaguardato, speriamo nel futuro, un piano industriale c'è, perché comunque ci sono dei clienti e tutto, esatto. E io vi auguro buona fortuna e sarei sempre al vostro fianco. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao. bellissimo pezzo questo. Vi consiglio a tutti di andare alla ricerca nella nostra pagina podcast Il Pane Rose per scoprire questi musicisti che mandiamo in onda e questa nuova selezione musicale che tanto piace a molti ed altri invece i nostri ascoltatori ha lasciato un po' interdetti, ma ogni tanto ci piace cambiare, sapete, noi cerchiamo di stupire sempre. Ora, abbiamo ascoltato prima di questo bellissimo pezzo musicale Pina Mangone, delegata della FIOM di ex Saga Coffee, oggi Gaggio Tech. Ne abbiamo parlato nell'introduzione, l'avete ascoltato quello che ha detto, e per chi non avesse ascoltato e si fosse collegato solo adesso, ripeto, potete trovare la puntata in podcast sulla pagina Il Pane Rose. Insomma, cosa dire? Tutti sapete che io, chi mi ascolta e chi mi segue, sa che io sono per la nazionalizzazione sotto il controllo operaio delle fabbriche in crisi. Però quando c'è una lotta, una battaglia condotta in maniera così intensa dalle lavoratrici, in cui il sindacato, anima e corpo, cerca una soluzione che salvaguardi il territorio, l'unità produttiva, il lavoro e i diritti dei lavoratori, io non posso che non essere d'accordo quando questo viene fatto. Detto questo, ci sono una serie di situazioni da sistemare, quindi ne ha parlato in maniera molto specifica. C'è sono tutta una questione della contrattazione, questo accade sempre quando c'è un passaggio di proprietà, perché è chiaro che Bologna ha una tradizione contrattuale molto importante, una serie di livelli di contrattazione di un certo livello. La Saga Coffee è seguita, insomma, dai funzionari sindacali che hanno sempre fatto la contrattazione di secondo livello, avevano dei diritti in più del contratto nazionale, un livello salariale maggiore dei minimi, e questo, insomma, è tutto da rivedere, da piano piano riconquistare. Altre aziende l'hanno fatto, io non ho dubbi che i lavoratori della Gaggio Tech lo faranno anche lì. Ora, da questa puntata che esprime speranza, si può fare, si può rigettare licenziamenti, si può fermare la depauperizzazione del territorio a livello industriale, tutto si può fare anche in zone così impervie come la Saga Coffee, ex Saga Coffee, insomma Gaggio Montano. E dunque una puntata di speranza, e io vorrei fare un appello a tutti i lavoratori che mai dire mai, solo chi non fa le battaglie le può perdere, e dunque tutte vanno tentate fino alla fine. Un saluto a tutti, ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao! Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución!